da-dee-bop, da-dee-bop. Da di da, da da di ba, di di di di di, da da da da da da, da da da da mama. Avanti popolo, alli per cop, che Robocop trionferà. Avanti popolo, c'è la ricotta 3x2, se compri 3 San Giuseppe ti regalano un bue. Avanti popolo del marketing, il target oggi è di restare in. Avanti popolo, sì, c'è la rivoluzione, i sofficini Findus ti aspettano sullo scaffale. O partigiano, portami al lupime, perché mi viene, perché mi viene di fare shopping, na na na. O partigiano, portami al lupim. Avanti popolo, occhio alla data di scadenza, se il prodotto è rancido ci organizziamo resistenza. Col fazzoletto rosso sulla montagna incantata a trasformare la neve in panna montata. O partigiano, portami al lupim, perché mi viene, perché mi viene di fare shopping, na na na. O partigiano, portami al lupim. Avanti popolo, all'ipercop, ci sta Robocop che sta mangiando un asello, un cliente lo guarda e compra proprio quello. L'egemonia culturale della pubblicità, tap tap tip tap, strunz.